Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Ed eccoci arrivati alla prima domenica dell'ultimo mese del 2012. Mamma mia, come passa il tempo. Comunque, a voi tutti cari ascoltatori, un affettuoso saluto da parte di Gesi e di Antonio. Ciao Antonio. Ciao Gesi. Cosa ne dici che siamo ormai arrivati a dicembre? Qui niente, il tempo fugge e non possiamo trattenerlo. No. Niente, cerchiamo di riempirlo di contenuti a beneficio dei nostri interlocutori. Vabbè, ecco. Allora intanto comincia tu a riempirlo. Allora, un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it, e il numero di telefono per consigli, proposte, suggerimenti ed altro, 346 23 20 033. Ricordiamo sempre che è possibile l'ascolto in streaming e il relativo download della trasmissione, senza dimenticare naturalmente un saluto al nostro regista. Eh sì, ciao Eddie. Bene, stasera avremo un ospite virtuale, avremo il signor De Guio, si presenterà poi lui, che ci parlerà delle feste che si fanno ad Asiago. Asiago, andiamo in montagna, dai. E visto che neve ancora, non credo che si possa sciare, no? È ancora presto, credo. Sì, lo so che siamo in provincia di Vicenza, che forse bisognava ascoltarci un pezzo corale di Beppi De Marzi, ma stasera ho voluto cambiare un pochino e abbiamo pensato di farvi ascoltare una bella composizione corale, a me piace molto, che è cantata in friulano, però sì, vi daremo anche la traduzione in italiano, e il pezzo si intitola Stellutis Alpini. Adesso Antonio ve lo legge in friulano e poi io ve lo leggo in italiano, naturalmente in modo approssimativo come ne sono capace. Certo, è un'emozione sempre. Stellutis Alpinis, se tu vens cassuta cretis, la che lor mi han soterat, ale un splaz plen di stellutis, dal mio sang l'estat bagnat, par segnal un crosute i escolpide l'ital cret, fra che stelis nas l'arbute, sod di lor io duar quiet. Chiol su, chiol uno stellute, ie riguarda il nestri ben, tu i daras ne bussadute e poplati l'etal sen. Quan che chiase tu se sole e di cur tu preis per me, il mio spir a torti svole, io e la stele sin con te. Allora, stelle alpine, se tu verrai quassù fra le rocce dove fui sotterrato, troverai uno spiazzo di stelle alpine bagnate dal mio sangue. Una piccola croce scalpita nel masso, in mezzo alle stelle ora cresce l'erba, sotto l'erba io dormo tranquillo. Cogli una stella alpina, essa ti ricorderà il nostro amore, e baciala, nascondila poi nel seno, e quando sarai sola in casa e pregherai di cuore per me, il mio spirito ti alleggerà intorno, io e la stella saremo con te. Questa composizione corale sarà cantata dal coro Brigata Alpina. Oh, Bene, siamo tornati in studio e adesso parleremo telefonicamente con l'amico Domenico De Guio. Signor Domenico, buonasera. Buonasera Domenico. Buonasera. E benvenuto e grazie di aver accettato di far parte della trasmissione. Ma grazie a voi, è sempre un piacere. Qui siamo Antonio, collega, e io, siamo in due. Molto lieto. Ecco, senta signor De Guio, lei fa parte del consorzio di Asiago dei Sette Comuni. Sì, sono vicepresidente del consorzio turistico di Asiago Sette Comuni. È un'associazione tra vari commercianti, albergatori e così, che si occupa della promozione e della commercializzazione del prodotto turistico ad Asiago. Bene. E mi hanno detto che ci sono tante feste, manifestazioni, magari se lei ce ne vuole elencare così. Sì, guardi, adesso diciamo che il mese di dicembre da anni e anche per la nostra tradizione è dedicato al Natale e all'attesa del Natale. Quindi le tematiche che si possono, diciamo così, ricondurre al Natale sono i mercatini di Natale, l'albero di Natale e i presepi. Quindi questa è la nostra diciamo tematica di questo periodo, in avvicinamento e anche durante le feste natalizie. Quindi nelle varie piazze dei paesi, e mi riferisco a quelli principali, ad Asiago, a Gallio e ad Enego, sono presenti i mercatini con i prodotti tipici natalizi. Una novità particolare, a Gallio ci sono anche le renne, poi Babbo Natale aspetta i bambini nelle piazze tutti i sabati e le domeniche, e abbiamo da segnalare anche le mostre dei presepi che possono essere fatte o all'interno delle chiese. Mi riferisco alla chiesa più vecchia dell'Altopiano, che si trova a Santa Margherita di Rosso, dove da più di 30 anni c'è la mostra dei 100 presepi. Inoltre, è una cosa molto particolare in una chiesa che sa di francescano, perché è stata costruita intorno all'anno 1000. E sì. Poi bello anche da vedere è la mostra di presepi che viene fatta a Tresche Conca, sia all'interno della parrocchia che lungo le vie del paese. Mi scusi signor Domenico, lei diceva che ogni sabato, ogni domenica fate, c'è Babbo Natale nelle piazze, in che cosa consiste? Allora, Babbo Natale incontra i bambini e si fa consegnare le lettere per poi portare i doni a casa loro. Ecco, questa è una cosa che fa, diciamo così, molto piacere alle famiglie. E poi, se per caso si è alloggiati o si vuole venire a Roana, a Roana e a Mezzaselva, Babbo Natale consegna direttamente i regali ai bambini in piazza, passando con la troica. Troica è la slitta trainata dai cavalli, ecco. E questo da quando? Allora, l'incontro per le richieste a Babbo Natale iniziano il giorno 8 e 9 di dicembre. Ecco. Mentre logicamente la consegna viene fatta alla vigilia di Natale in piazza. E poi vi diceva che avete questa mostra di 100 presepi. Sì, da anni a Rosso, il paese, diciamo il paese che ha la chiesa più vecchia dell'Altopiano, ci sono, c'è questa mostra dei presepi. È una mostra che è aperta tutti i giorni durante le feste natalizie e raccoglie tutti i presepi costruiti, diciamo così, dalle mani delle persone più semplici, le famiglie, insomma. Sì, sì, ecco, le fanno le persone, insomma, poi ve li porta. Sì, una mostra, ecco, non... Li portano alla chiesa e è bello perché si vedono i presepi costruiti in mille maniere, dai bambini, diciamo, dell'asilo fino al più grande esperto, certo. Le mani di un artigiano, certo. Ecco. Non è una competizione, quindi, ma una mostra. No, ecco. No, assolutamente. Sì, sì, sì. È una mostra collettiva, diciamo. Sì, ecco, esatto. E questa avviene in tutti questi 7 comuni? No, questa mostra particolare c'è a Rozzo, nella chiesa di Santa Margherita. Ah, solo lì? Sì, che è la chiesa più vecchia dell'Altopiano. E questa mostra viene inaugurata il giorno di Natale e resta aperta tutti i giorni fino al 6 di gennaio. Ho capito. Ecco, l'altra mostra è il percorso dei presepi, si trova a Tresche Conca, salendo dal Costo, il primo paese, è aperta presso il centro parrocchiale dal 16 di dicembre. Ho capito. Al 6 di gennaio. Ho capito. E voi la vigilia come la festeggiate? Avete qualche tradizione particolare? Beh, le tradizioni particolari che sono dei nostri paesi portano alla notte dei tempi, nel senso che da noi si cantava la stella. E in pratica, in cosa consiste? Dei cori parrocchiali vanno per le vie del paese cantando i canti natalizi. Sì. Ecco, questa è una tradizione tipica dei paesi nostri, dei paesi nordici, che ci è stata trasmessa ed è sempre stata mantenuta nei tempi. Sì, ho sentito anch'io che anche qui a Treviso una volta battevano la stella. E sì, ecco. Adesso non so, adesso le cose qui si sono modernizzate, ma voi mantenete, sì, le tradizioni. Si è modernizzata, diciamo, e anche noi, nel senso, ci siamo modernizzati perché nell'avvicinamento al Natale nelle chiese parrocchiali oppure nei centri di ritrovo, possono essere i cinema, i teatri, eccetera, eccetera, si canta il gospel, è una tradizione, diciamo così, anglosassone, che è stata riportata qui per dare uno spunto maggiore alla festa, ecco, internazionalizziamoci. Ho capito, ma allora lo cantano questi gospel, vengono cantati dai vostri cori parrocchiali? No, ci sono proprio dei gruppi, dei gruppi specialistici. Dei gruppi gospel che vengono invitati nelle chiese parrocchiali, la chiesa parrocchiale di Lusiana piuttosto che quella di Enego, di Cesuna, però il programma è talmente fitto che adesso elencare manifestazione per manifestazione, evento per evento, può essere, certo, non avrebbe nemmeno, diciamo così, significato, un po' confusionario, certo. Comunque fatica a tenere il passo, assieme, esatto. Ecco, e comunque per ogni informazione può essere contattato l'ufficio di informazioni turistiche dell'Altopiano di Asiago, il numero di telefono è lo 0424 462 221 e questo è aperto tutti i giorni e ha la massima disponibilità ad offrire tutte le informazioni sugli eventi. Sì, allora adesso noi ci fermiamo per ascoltarci una canzone. Lei resta in linea e poi sentiamo, perché vorrei sapere come festeggiate il Natale, come vi preparate all'ultimo dell'anno, tutte queste cose. Va bene. Le dispiace aspettare un momentino? Ma si figuri. Grazie. Allora, ci ascoltiamo la seconda canzone in programma, che è Non calpestate i fiori, siamo in montagna. Non calpestate i fiori, perché l'amore mio che deve andar lontano vuol coglierne uno per me. Non calpestate i fiori, lasciate che mio amore che mi farà un fiore, mi dirà le cose che il mio amore diceva solo a me quando stavo con lui. Non calpestate i fiori, vorrei che il mio Eccoci di nuovo in studio, sempre con il nostro signor Domenico De Guio. Pronto? Sì. Siamo sempre qua. Allora, signor Domenico, ci racconta un pochino succintamente come poi si va avanti con queste feste, con queste cose, insomma, fino ad arrivare all'Epifania. Non so se voi avete la tradizione del pane e vino, no? No. Ah, voi non l'avete. Quale tradizione avete più, a parte questa dei presepi? Poi durante le feste, quali altre tradizioni particolari avete? Beh, guardi, il Natale qui da noi intanto viene vissuto in una maniera particolare, perché ci aspettiamo sempre la neve, che è, diciamo, la cornice del nostro paesaggio. E quindi con la neve ci sono una serie di manifestazioni che sono tipiche proprio dell'inverno, quindi le ciaspolate, le camminate con le ciaspole sulla neve, piuttosto che le fiaccolate fatte con i maestri di sci, dove possono partecipare i bambini e le famiglie. Poi normalmente c'è sempre anche un rinfresco o una cioccolata calda, dicevo prima, negli incontri con Babbo Natale, piuttosto che con le sue renne, piuttosto che all'interno dei mercatini. Ma sono vive, le avete proprio vere le renne? Sì. È da anni che sull'altopiano c'è un piccolo numero, un esiguo numero di renne che viene allevata, vengono allevate, sono qui a Gaglio e logicamente non è che le facciamo arrivare all'ultimo momento. Sì, sì, beh, certo, certo. E i bambini se la godono sicuramente? I bambini, quelli che ci visitano anche durante l'anno, hanno l'opportunità di vederle proprio sempre, perché poi in estate vengono portate in montagna, a Campo Muleto, dove c'è un po' più fresco e stanno meglio, ecco. Quindi adesso la stagione sciistica comincerà anche quella verso l'8 e il 9 di dicembre, vero? Ecco, sì, noi aspettiamo sempre la neve e dovrebbe arrivare, diciamo, in questi giorni, quasi come ordinata, almeno il tempo, le previsioni ci hanno promesso questo. E con l'inizio della stagione invernale inizia quindi anche la stagione sciistica, e quindi li aspettiamo sui numerosi percorsi e sulle numerose piste di sci da discesa e di fondo. Lei mi parlava delle fiaccolate e di un'altra parola, ha detto che non ho capito cosa volesse. Ciaspolate, ecco. Le camminate con le racchette da neve. Le racchette. Ho capito. E quindi poi, finite queste feste di Natale, passate alle feste del Carnevale. Prima di arrivare a Carnevale abbiamo un lungo percorso che è tutto gennaio, se vogliamo accennarlo, sì. Anche perché poi la gente magari si dimentica, sì. Perché siamo abituati anche col periodo, il periodo a fare le cose proprio mese per mese. Ho capito. Comunque c'è un grosso programma anche per Carnevale, una cosa per tutte: durante quel periodo di Carnevale, oltre alle feste in maschera, è prevista la manifestazione che ormai è diventata famosa in tutta Italia, che è Fiocchi di Luce. Si fa qui all'aeroporto di Asiago, e in pratica consiste nell'abbinamento tra fuochi di artificio e la musica, che viene messa in contemporanea. È uno spettacolo originale che da anni si fa qui ad Asiago e riscuote molto successo con il pubblico. E la fate una volta o la fate? No, viene fatta in 3 giorni. E quest'anno dovrebbe coincidere anche con un grosso evento sportivo, che sono i mondiali master di sci da fondo. In pratica ci attendiamo 1500 atleti circa da tutto il mondo, atleti non di primo livello, ma diciamo gente che è disposta a fare una vacanza attraverso lo sci di fondo. E quindi 1500-2000 persone le avremo qui intorno alla metà di febbraio, e durante questo periodo ci sarà questa manifestazione di contorno. Logicamente, oltre a queste persone, ci attendiamo anche tantissime persone che vengono per fare il la supporto, settimana bianca, certo. Ecco, e sono ben accette, voglio dire, a tutte le manifestazioni che verranno, che sono già programmate, ma certo, che verranno, diciamo, messe in calendario per quel periodo. Sono, ecco, un ottimo strumento, sì. Sì, noi per informare il nostro visitatore, il nostro turista, ci utilizziamo in pratica 2 grossi strumenti, che sono quelli dell'Ufficio Informazioni Turistiche, che può essere accessibile sia attraverso il numero di telefono che attraverso internet, e un calendario delle manifestazioni che viene pubblicato da oltre 30 anni ed è, si chiama Asiago Dove. Ecco, è un libricino che raccoglie, come dicevo, tutte le manifestazioni giorno per giorno, luogo per luogo, ed è disponibile presso tutti gli uffici di informazione turistica che ci sono sull'altopiano, e ce n'è uno o più di uno per ogni comune. Quindi al turista non deve solo che andare e chiederlo, perché logicamente è gratuito. Sì, questi sono strumenti di promozione turistica notevoli, come per esempio la vittoria olimpica del vostro compaesano Enrico Fabris nella short track, nella pista lunga. Nella short track, sì. Sì, esatto, mi faccio la memoria fallace, nella pista lunga, giustamente. E anche lì è stato oppure le vittorie in campo di hockey su ghiaccio, se non ricordo male, giusto? Esatto, da 2 anni... ci sono grossi risultati nell'hockey, ma non solo a livello di prima squadra, anche tutti i giovani si comportano molto bene, ma dopo c'è da elencare anche tutta una serie di associazioni sportive che primeggiano in campo provinciale, regionale e anche nazionale. Certo, poi ecco. Avete sì? Sì? Sì, sì, no, prego. Questo, diciamo così, sono delle particolarità che vediamo che il turista apprezza, perché logicamente una partita di hockey è qualcosa di particolare che si trova non dappertutto, quindi è un'attrazione. La partita di hockey è una delle manifestazioni sportive che vengono viste volentieri dal visitatore dell'altopiano, come le manifestazioni di pattinaggio artistico, o piuttosto che la pattinata sul ghiaccio. Pattinare sul ghiaccio, andare a sciare, andare con la slitta, andare col bob, è una cosa che fatta sull'altopiano prende diciamo così una piega diversa, ha un contorno, una cornice completamente diversa che parla dalle altre parti. Fiabesca proprio, sì. Esatto. Ecco, anche perché è risaputo che l'altopiano è la scuola dello sci. Tutti, una volta imparato lo sci, magari si cimentano anche in piste più difficili, però i primi passi sia nello sci di fondo che nello sci da discesa, quasi tutti i veneti e quasi tutti coloro che abitano a circa 3-4 ore di distanza dall'altopiano vengono fatti qua. È un polo d'attrazione notevole, giustamente. E questo fino a Pasqua, in sostanza, perché quest'anno poi Pasqua è anche bassa, quindi ci sarà, speriamo che ci sia neve fino a marzo. E guardi, di solito in un anno normale, anche se negli ultimi anni la normalità ha preso un altro significato, noi abbiamo neve fino ai primi di maggio. Ecco. Addirittura fino ai primi di maggio. E quindi sì, continuate con queste feste? Gli eventi e soprattutto le sciate o le camminate o le passeggiate in alta quota si fanno calpestando la neve. Ecco, logicamente la neve ha un colore diverso a dicembre che non a maggio. Beh sì, maggio ormai. Anche perché alla fine di aprile o ad aprile, maggio, abbiamo anche altri interessi, quindi cominciamo a tirare fuori la bicicletta, cominciamo a fare anche delle attività che sono diverse. Poi cominciate le attività primaverili, che penso che saranno parecchie anche quelle, no? Sì, vanno sempre affiancate o diciamo scelte in base alla stagione. Logicamente se l'inverno dura tanto, qui sì. Siamo abituati a fare sciate fino alla fine di aprile, però magari la neve resta solo ad alta quota, e a bassa quota dove ci sono i paesi ci sono anche moltissimi percorsi per camminare o per andare in bicicletta in tranquillità, e quindi dà spazio sia agli appassionati dello sci che agli altri appassionati dell'aria pura di visitare altri luoghi. Aspetti ancora un momentino che facciamo un'altra canzone e poi facciamo l'ultima tranche. Resti in linea che poi noi la riprendiamo. Ci ascoltiamo la terza canzone in programma, che ha richiesto una nostra cara amica, anzi la nostra cara ascoltatrice, proprio è un'assidua ascoltatrice, ed è una canzone cantata da Milva intitolata Da troppo tempo. Da troppo tempo mi trascuro, questo sì, ma mi sorprendo anch'io di essere così. Ormai non esco quasi più, ho perso il gusto a tutto, ma se c'è chi ha colpa, quello sei tu. Da troppo tempo son cambiata e sai perché? Tutto il mio slancio si è spezzato contro te. Sì, tu sei forte più di me, non domandarmelo però, questo piacere non te lo do. Io vorrei, se lo vorrei, credi ho fatto l'impossibile, un discorso insieme a te in fondo si esaurisce dopo qualche frase un po' banale, mentre invece io, lo sa Dio, io vorrei venire incontro a te, a introverso come sei. Da troppo tempo, troppa pace tra di noi. Va bene, caro, torna pure quando vuoi. Noi ci si intende ancora un po', sul piano fisico però, per un amore non basta noi. Eccoci di nuovo in studio con il nostro ospite, al quale volevo chiedere, se la memoria non mi inganna, ci sono anche dei personaggi famosi che sono vissuti o che hanno come punto di riferimento l'altopiano dei Sette Comuni. Dico per dire Mario Rigoni Stern, se non ricordo male, sì. Ermanno Olmi, Celentano, sbaglio? Non sbaglia. Sono, evidentemente c'è un microclima, una attrazione particolare, diciamo, di una, come posso dire, un panorama o quello che sia di attrazione particolare per chi magari vive sempre in città o cose di questo tipo, insomma. Sì, guardi, ha centrato la tematica perché voglio chi le cose che hanno avvicinato queste persone all'altopiano sono l'attaccamento alla terra, che mi riferisco a Mario Rigoni Stern, esatto. E la bellezza del territorio decantata in tutti i suoi libri. Ricordiamo che Mario Rigoni Stern è proprio nato qui ad Asiago, esatto. Ed ha vissuto da sempre ad Asiago, tranne nei periodi in cui era militare e durante il periodo della guerra. Mario Rigoni Stern ha avuto il piacere, diciamo così, di convivere con Ermanno Olmi, perché sono proprio vicini di casa e esatto. La tradizione è stata portata avanti in simbiosi, perché anche Ermanno Olmi è un grande amante dell'altopiano, esatto, ma della natura in generale, delle tematiche che sono le tematiche del sociale, che sono le tematiche della vita rurale, l'albero degli della zoccoli, bellezza sì, della natura, eccetera, eccetera. Sì. E questa bellezza, questa tranquillità viene vissuta anche da altri personaggi, li ha citati lei, sì, sì. Adriano Celentano, esatto, che ha la casa ad Asiago, ma ad Asiago ci sono tantissime persone importanti che hanno la casa o che vengono a soggiornare. Logicamente chi viene ad Asiago ha anche la necessità o ha la volontà di restare un po' nell'anonimato, esatto, e di vivere nella tranquillità la sua vacanza. Quindi noi siamo nell'accoglierli, siamo rispettosi anche di questo. E discreti, e, giustamente, quindi, sì. Non li nominiamo anche per la privacy, per tutela della loro privacy. Certamente, sì, sì. Certamente. Ecco, fa sempre piacere comunque incontrarli in piazza, scambiare una parola, anche solo vederli interessati alla terra, alle manifestazioni e alla sì, nostra vita. Certo, certo. Chi viene ad Asiago si sente parte della nostra terra. Si sente a casa sua, dai. Ecco, esatto, diciamo così. Come a casa loro. Ecco. Io volevo chiedere così, perché poi magari più avanti parleremo di altri mesi, di altre feste che avrete nell'arco dell'anno, no? Ma così per concludere, lo volevo chiedere se avete qualche cibo particolare. Volevo chiedere se avevate qualche cibo particolare per le feste, per questo periodo. Allora, logicamente nella tradizione nostra un cibo particolare per Natale non c'è, tipico proprio, non so, come il tacchino in America o altre pietanze. Logicamente però i nostri ristoranti e le nostre gastronomie sanno presentare quelli che sono i piatti della nostra tradizione tipica, che comunque può essere tutto l'anno oppure può essere presentata in maniera particolare solo per le feste. Ecco, lei mi ha chiesto prima quali sono le manifestazioni. Le manifestazioni da noi, per esempio, negli ultimi anni sono state guidate da un'associazione di ristoranti che hanno presentato proprio i menù tipici della nostra cultura, riscoprendo anche attraverso uno studio con la scuola alberghiera quelli che sono stati da sempre i gusti della nostra terra. Quindi piatti particolari fatti con i prodotti tipici nostri, gli ortaggi tardivi, la patata, la verza, il porro, i crauti, la carne di maiale, tutte queste cose qua che solo ad accennarne ti fanno venire l'acquolina in bocca. Beh, certo, certo, sì. Ecco, e poi... E avete un dolce particolare, avete un dolce, Il dolce particolare nostro è un dolce che non è natalizio, è diciamo la torta ortigara, che ha più di 100 anni di tradizione. Adesso l'associazione artigiani ha confezionato anche un nuovo dolce natalizio che si chiama la gatta, nel simbolo della nostra provincia, che è, noi siamo magnagatti, vicentini. Ecco, è stato scelto anche il nome apposta. Logicamente il culmine della specialità viene fatta durante sia Natale, il pranzo di Natale, che il cenone di fine anno. Ecco, sì. E per questo è meglio contattare l'ufficio, e l'ufficio sa dare tutte le informazioni. Sì, sì, ma adesso io volevo saperlo così per curiosità, per i nostri ascoltatori, che cosa si mangia di buono ad Asiago, ecco questo volevo. I biscottini di Natale adesso, tutte queste, diciamo così, prelibatezze che sono proprio tipiche dell'ambiente nordico, adesso la riscoperta anche di nuove farine, così questa è la tipica tradizione che ci lascia la collina in bocca del Natale. Sì, sì, anche Asiago si modernizza anche nei cibi. Sì, si modernizza, ma diciamo più che si modernizza attraverso anche la riscoperta dei vecchi gusti. Ecco, che non sono mai stati, sì, diciamo così, dimenticati, certo, certo. Diciamo che sono stati esaltati da una serie di attenzioni che sono tipiche della nostra tradizione. Mi riferisco per esempio al buonissimo miele che c'è sull'altopiano, alle confetture di rigoni che sono conosciute in tutta Italia, e che accostate, diciamo così, alla tradizione e al lavoro dei nostri artigiani pasticceri, sì, danno qualcosa sicuramente di particolare al nostro palato, ecco. Certo. Signor Domenico, io così qui noi siamo stati contenti della sua esposizione e le chiediamo se magari più avanti parleremo degli altri mesi, delle altre feste che ci sono, delle altre tradizioni, se lei sarà disponibile. Io sono disponibilissimo. Benissimo. Contattateci. Certo. Per avere delle utilizzazioni continue, io invito, e lo ripeto perché è giusto che sia memorizzato, invito ad informarsi appunto presso l'ufficio turistico dello IAT di Asiago, che è lo 0424 462 221, oppure attraverso la mail, che può essere fatto allo iat.asiago@provincia.vicenza.it. Sì, intanto noi ne abbiamo parlato intanto un po' e magari prossimamente parleremo delle feste di primavera, d'estate. Intanto poi, perché abbiamo sempre la memoria corta, appunto, quindi ci possiamo risentire anche durante le vacanze di Natale. Appunto, appunto, appunto. Allora, signor Domenico, noi la ringraziamo e se non ci sentiamo le facciamo anche, vero Antonio? Naturalmente, in anticipo. Le facciamo anche gli auguri di buone feste. Grazie. Grazie, buona serata. Ringrazio voi. La ringraziamo. E spero anche di vedervi sull'altopiano, perché parlarti tra il telefono e il microfono non si sa mai. È sempre davanti una cioccolata calda. Cioè, benissimo, non poniamo limiti alla provvidenza. Non poniamo mai limiti alla provvidenza. grazie, signor De Guglio. Grazie mille. Grazie, buonasera. Grazie. Buonasera, buonasera. Ci risentiamo. Sì? Auguri a tutti. Grazie. Buonasera. Grazie, buonasera. Bene, ringraziamo il nostro signor Domenico De Guglio, vicepresidente del Consorzio di Turismo di Asiago, dei 7 comuni, no? Esatto. E ci ascoltiamo la quarta canzone in programma, che è cantata da Lucio Battisti, Perché no? perché no? Perché no? Perché no? Perché no? Scusi lei, mi amo no? Non lo so, però ci sto. Comperà la terra, i semi e qualche grande vaso. Coltivare un orto sul balcone insieme a te. Chi rubò la mia insalata? Chi l'ha mangiata? E rincorrerti sapendo quel che vuoi da me. Chiede gli opuscoli turistici della mia città. Con te passare il giorno a visitare musei, monumenti e chiese, parlando inglese, e tornare a casa piedi dandoti da lei. Allora, niente, noi vorremmo restare nell'ambito della tradizione, così per completare la nostra serata, leggendo qualche breve frammento da Par modo de dire di Gianfranco Siega. Ai tempi che Berta filava, ai tempi antichi, quando la regina Berta, madre di Carlo Magno e donna di semplici costumi, passava la giornata in casa a filar la lana. Domi mansit, lanam fecit. Di questa Berta, detta anche dal gran piede perché aveva un piede più lungo dell'altro, per esempio aver do pie come do sfoggi, direbbero i veneziani, si racconta pure che, fatta prigioniera e avendo voluto rimanere in incognito, si fosse guadagnata umilmente la vita filando e tessendo. In ambedue i casi possiamo dire che la sua vita filò serena. Ancora in una variante poco conosciuta, Berta è identificata con Berta di Savoia, sposa dell'imperatore Enrico IV, quello di Canossa. Costei, in suo soggiorno a Padova, donò una povera contadina, chiamata anche lei Berta, la filatrice, in contraccambio di uno stupendo ricamo, un poderetto nella zona. Figuriamoci le altre, tutte di corsa a portar ricami, tovaglie, pizzi e cuffiette, ma Berta di Savoia, che aveva ben capito il Bergamo, rispondeva a tutte: non è più tempo che Berta filava. E poi c'è un'altra simpatica. Simpatica, che si chiama Aecurte. Aecurte significa alle corte, sì. Sbrighiamoci. Un discorso che andò veramente per le corte fu quello pronunciato da Garibaldi nel 1875 a Roma. Ad una folla di romani festanti e gazzarrosi che lo reclamavano alla finestra del suo albergo, l'eroe dei due mondi non poté negarsi e, aperta la finestra, «Romani!» iniziò con voce reboante, ma subito dopo passò al finale. «Siate seri!» ed immediatamente rinchiuse. E riporto anche l'intervista più breve da me conosciuta, quella che il trentesimo presidente degli Stati Uniti, Calvin Coolidge, noto per la sua laconicità, concesse ad una giornalista che aveva scommesso con i colleghi che sarebbe riuscita ad estorcergli almeno 4 parole. Il presidente, saputolo, la accolse con un sorrisetto e «Avete perduto, signora», disse, e la congedò con un cenno della mano. Anche gli spartani, si sa, erano assai poveri di parole. Ad un generale nemico che minacciava «Quando entreremo in Laconia, distruggeremo i vostri campi e le vostre città», il re Archidamo rispose semplicemente: «Quando?». Brevissima, Victor Hugo, volendo sapere dal suo editore come stesse andando la stampa di un suo libro, mandò un telegramma. Punto esclamativo. Ne ebbe per risposta un confortante punto di domanda. Simpatico però. Decisamente. Punto esclamativo, punto di domanda. E potremmo leggere anche un'ultima cosa. Barba, la definizione di barba. In questo significato, peraltro assai diffuso, il termine è da considerarsi come un traslato allocutivo indicante persona anziana, uomo autorevole, uomo con la barba. Il senso di zio, il termine è usato anche da Dante, dal barba e dal fratello opere sozze. In senso generale di rispetto invece è adoperato ancora oggi dai valdesi che chiamano barbetti i pastori della loro fede. In queste brevi note si è sempre scritto degli importi di lingue diverse dal nostro dialetto. È giunto ora il momento di prendersi una piccola soddisfazione. Nel porticciolo di Eli, di fronte all'isola greca di Spetses, un piccolo locale di mescita ha per insegna Barba Spiros, zio Spiro, quasi la venezianissima insegna di una nostra osteria. La barba fu pressoché sempre usata nelle varie fogge della moda imperante dai veneziani. Cadde in disuso, anzi fu addirittura ostracizzata per l'avvento della parrucca alla metà del 1600. Nonostante chi la portasse fosse ormai additato come barbogio, il nobile Paolo Foscari ebbe il coraggio di continuare a serbarla, suscitando commenti e chiacchiere pari a quelle che circolavano per Atene sulla coda del cane di Alcibiade. Non capisco perché lo zio lo chiamino barba. Barba, questa è un'antica locuzione che adesso... Sì, sarebbe... ma non ha... Beh, insomma, vabbè. Niente, comunque, possiamo così se vuoi, ci ascoltiamo l'ultima canzone, che è cantata da Steven Lauren. Steve Lawrence, Steve Lawrence. Io non sono nessun problema, non sono efferrata in inglese. Ecco perché devo esserci qua io, appunto. Che ci canta Non amarmi così. Eccoci di nuovo in studio per l'ultima tranche. L'ultima tranche, sì. Esatto. Diciamo per i saluti, no? Sì, per i saluti e anche per una breve considerazione che vorrebbe precedere i saluti. Noi parliamo sempre di libri, eccetera, eccetera. Abbiamo un grosso problema qui da noi in Italia. L'analfabetismo di ritorno. Abbiamo, sembra, almeno da statistiche attendibili, non so se l'Accademia della Crusca o altro, 6 milioni di analfabeti totali o paratotali e 12 milioni di analfabeti di ritorno. Addirittura. È una cosa che in un paese, diciamo, serio, avrebbe provocato una bufera, un terremoto, qualcosa. Qui da noi naturalmente siamo mitridatizzati, ho l'impressione, rispetto a queste cose. E niente, occorre, io mi permetto di insistere, occorre rinsavire alla svelta. Chiaramente i nostri lettori, i nostri ascoltatori, le nostre ascoltatrici non sono, come dire, quelli che rimproveriamo, ma potremmo fare, che so, un'opera di convincimento, un qualcosa di a leggere. Come posso, a leggere è fondamentale, sì, anche sì, perché leggere romanzi, eccetera, anche perché, a differenza di quello che si riteneva, che i lettori di romanzi fossero dei simpatici perditempo. No, è vero. I romanzi modificano addirittura la forma fisica del cervello. E poi ti fanno vivere anche vivere altre vite, quindi certo. È fondamentale, cioè è un immedesimarsi in altre storie. Ti aiutano a Ma poi plasmano addirittura il cervello, perché l'empatia, eccetera, inducono tutte queste, come dire, queste cose, queste cose valide, queste cose che danno vita agli anni e anni alla vita. Questo anche è fondamentale. Se uno non vuole leggere proprio sempre dei romanzi impegnati, può leggere qualsiasi cosa. Basta che legga. Tenersi in forma, esattamente. Grazie Antonio. Io ti ringrazio, ti saluto. Ogni tanto il mio, come dire, è giusto. Puntualizzo. In Italia non si legge molto. No, ecco, bisognerebbe leggere di più. Quindi, vabbè. E niente. Ti saluto. Con questo pensierino della sera, noi. Pensierino della notte, diciamo, lasciamo. E io come sempre saluto tutti col mio affettuoso abbraccio e dico ciao ciao. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.